Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Per quanto si spinga la raccolta differenziata dei vari rifiuti urbani, industriali, ospedalieri e così via, e si adottino a valle della raccolta sistemi di separazione sofisticati, rimane sempre una parte di rifiuto inseparabile, uno scarto dello scarto che in genere ha due possibili destinazioni, la discarica o il termovalorizzatore. Mano a mano che l'economia si farà sempre più circolare, questa quota indifferenziata, irrecuperabile, di rifiuti si ridurrà, ma realisticamente non arriverà mai a zero. Con i materiali e le tecnologie attuali rappresenta ancora una parte consistente della massa di rifiuti, perciò riuscire a trovare un utilizzo alternativo costituisce una sfida ineludibile, anche se può sembrare paradossale. Un impiego realistico è nella fabbricazione di mattoni con cui realizzare abitazioni ed edifici vari. Sentite qui. I'm standing by one of the landfills here in Muzaffarnagar where paper mills are dumping their boiler ash. This comes at a huge expense to factory owners to purchase land, level and wet the ash. Ecco, la voce che sentite è quella di Michael Larasi, fellow del MIT Data Center, un centro di ricerca che si occupa di tecnologie e design che possano dare risposte ai problemi dei paesi in via di sviluppo, con un forte focus sull'India, dove anche lui si trova. By burning the cheapest materials on the market. This variation of materials which are burned leads to the production of ash with variable physical and chemical properties, thus preventing its use. So here we're producing bricks at the lab scale. We are trying to use the boiler ash produced at the paper mills to produce bricks. Our goal is to do this using alkali activation technology, which is a low energy process and offers several advantages over the traditional clay-fired bricks. Ecco, Larasi, lo avete sentito, spiega come siano riusciti a produrre dei mattoni a partire dalle ceneri della centrale termica di un impianto per produrre la carta che, come dice lui stesso, brucia in pratica il combustibile più economico che trova sul mercato e quindi produce ceneri a dir poco problematiche. Queste ceneri vengono sottoposte a un processo che viene detto alkali activation, attivazione alcalina, scoperto all'inizio del Novecento e su cui è tornato un certo interesse di recente. Questo processo porta alla formazione di un materiale paragonabile al cemento Portland e altrettanto inerte con cui appunto vengono prodotti questi mattoni. Se poi dall'India ci spostiamo in Brasile, troviamo un'impresa che per esempio ha messo a punto un processo per fabbricare mattoni modulari, anche piuttosto sofisticati, a partire da rifiuti di ogni tipo o quasi. Sentite qui. After being collected from landfills, the waste goes through a hygiene process, and then recyclable items such as metal and plastic are reused. The rest is ground and sieved until it becomes sand. Following these procedures, the sand is mixed with Conlix, which encapsulates and inhibits the growth of bacteria. The sand is mixed with soil and cement, pressed, and finally, we have an ecological brick, odorless and with double the resistance of conventional ceramic bricks. Ecco, questo è l'audio di un filmato che spiega il processo. Avete sentito, dopo aver separato tutti i materiali riciclabili, quello che rimane viene prima in pratica reso sterile dal punto di vista batteriologico, quindi triturato, setacciato, fino a trasformarsi in una sorta di sabbia inerte. E questa viene mescolata con cemento, altra sabbia convenzionale, e così nascono questi mattoni. Ma ad andare per la maggiore sono soprattutto i mattoni fatti riciclando scarti di plastica, possibilmente la frazione meno pregiata. Un progetto di questo tipo che ha già molte realizzazioni all'attivo è quello portato avanti in Colombia dall'architetto Oscar Mendes, il quale ha messo a punto dei mattoni dove la plastica di scarto, in pratica fusa e mescolata con sabbia e altri inerti, fa da sostituto al cemento, funziona da legante. Ma ci sono progetti più avveniristici con mattoni in plastica riciclata che addirittura si incastrano come dei Lego. L'ultima storia di mattoni da rifiuto ci porta però in un paese che è più lontano, ma questa volta decisamente ricco, l'Australia. La notizia è di poche settimane fa, sentite. Bricks, because when we make fired clay bricks, we heat up the material up to 1000 or 1100 and keep it at that temperature for several hours. During that process we can change the material, the harmful materials disappear the materials, lock them, and during it becomes actually synthesized, and the materials, the harmful materials disappear and immobilize. Allora, questo signore che sentivate parlare si chiama Abbas Mojerani, ingegnere della Hermit University in Australia, e come avete sentito era ossessionato da questa presenza un po' ovunque di mozziconi di sigaretta. Nel mondo se ne producono, pensate un po', qualcosa come 2 milioni di tonnellate l'anno. Ebbene, questo Mojerani ha dimostrato come, inglobando in percentuali anche minime l'1% in peso all'impasto dei normali mattoni, questi mozziconi di sigaretta, si ottengano mattoni molto più leggeri che possono richiedere fino al 58% in meno di energia per la produzione e anche decisamente più isolanti, mentre le sostanze nocive contenute nei mozziconi vengono o distrutte nel processo di produzione dei mattoni o intrappolate in modo stabile e definitivo. Questo è davvero tutto, appuntamento a lunedì, buon fine settimana e buona continuazione su Radio 24.